either, and I say either, you say neither, and I say neither, either, either, neither, neither. Let's call the whole thing off. You like potato, and I like patata. You like tomato, and I like tomata. Potato, patata, tomato, tomata. Let's call the whole thing off. But all, if we call the whole thing off, then we must part. And all, if we ever part, then that might break my heart. So if you like pajamas and I like pajamas, I'll wear pajamas and give up pajamas. For we know we need each other, so we better call the calling off, off. Let's call the whole thing off. Things have come to a pretty pass. Our romance is growing flat. For you like this and the other, while I go for this and that. Goodness knows what the end will be. Oh, I don't know where I'm at. It looks as if we two will never be one. Something must be done. Belli di casa, buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di Il Grande Reset. In realtà ero indeciso se fare questo episodio perché, come sentite, sono in pessime condizioni con la gola, con il raffreddore, con il fiato, con la respirazione, con tutto quello che si inserisce all'interno della mia capoccia, che in questo momento sembra una zampogna. Detto questo, però, insomma, esordiamo con questo episodio che avevamo già rimandato, con questo brano che apparentemente Non ci dice niente, diciamo la verità, però in realtà è il brano, anche se questa è una versione un po' diversa da quella che conosciamo, ma è il brano dove Fred Astaire e Ginger Rogers duettano sulle parole, appunto, potato, potato, tomato, tomato, giocando insomma su questa cosa qui. Sicuramente il brano lo avrete riconosciuto e lo conoscete senza dubbio, e o perlomeno l'avete comunque sentito tantissime volte. E poi diciamo che era una signora coppia. Tra l'altro io non sapevo che l'autore della canzone fosse proprio Fred Astaire, quindi evidentemente, insomma, questo, io pensavo che canticchiavano e ballicchiavano, insomma, invece erano signori artisti che conosco poco, anche se quando ero piccolo mi ricordo che in televisione passavano spesso i film di Fred Astaire e Ginger Rogers. Io pensavo Ginger fosse veramente, cioè, nel senso, come ti chiami? Ginger, pensavo che si chiamavi come il nome di una bibita, in realtà invece no. Comunque questa è la puntata dove esploreremo, usando anche molto i vostri contributi, usando molto la musica e cercando di parlare di meno, e quindi non so quanto durerà la puntata, perché in effetti io avevo in mente di fare un tipo di puntata, però le forze sono quello che sono, l'energia è quella che è, insomma, la debolezza ormai si impossessa di me. E io vorrei iniziare, anche se diciamo, hai già iniziato, vorrei iniziare con un brano che poi mi introduce un po' a tutte le cose, insomma, che vorrei raccontare e vorrei far raccontare anche a voi che avete ovviamente mandato i contributi, con una canzone che io ricordo non per la canzone in sé, ma perché questa canzone ha rappresentato la colonna sonora di una famosissima di un famosissimo digestivo, no? E infatti la canzone nella pubblicità vedeva un attore che cantava al pianoforte questa canzone con tutte delle pietanze, e ovviamente poi dopo faceva la pubblicità del digestivo, tra l'altro modificando anche leggermente i testi, cercando un po' in giro, perché cercavo questa pubblicità ma non mi ricordavo il nome della pubblicità, quindi il prodotto che veniva pubblicizzato. Alla fine ho scoperto che in realtà questa pubblicità, ma solo in maniera strumentale come pianoforte, fu utilizzata anche una pubblicità della Barilla del 1981. E vabbè, Fred Buongusto, conoscete? Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena per te. Lola at the drive. Credo che tutti conosciamo la Madeleine di cui parla Proust nel romanzo La ricerca del tempo perduto e il significato che ancora oggi la Madeleine riveste in Francia ma anche da noi: un oggetto, un gesto, un colore, non necessariamente il biscottino a forma di conchiglia di Proust, che nella vita quotidiana evoca un ricordo del passato. Ecco, questo ancoraggio cibo-memoria credo sia alla base dei nostri ricordi più preziosi. Fabio Tombari ha scritto che i cervi ricordano col cuore. Ecco, qui si tratta di ricordare con il naso. Fra i tanti ricordi olfattivi della mia infanzia ho deciso di parlare della mitica salsa verde che accompagnava il bollito, noi lo chiamiamo il lesso, usato per fare il brodo per i cappelletti a Natale. Intanto la salsa verde era appannaggio del nonno Sergio e la ricetta, nonostante i tentativi orali e scritti di tramandarla, è morta con lui. Forse in realtà sono morti gli ingredienti, sì, perché i peperoni verdi lunghi sott'aceto si andavano a comprare da un certo Silvio che usava l'aceto vero, quello fatto con la cosiddetta madre. E poi il prezzemolo era sicuramente quello dell'orto del nonno e anche l'olio d'oliva arrivava da qualche parente di campagna. Non sto dicendo che gli ingredienti fossero migliori, erano però diversi, o forse era diversa l'atmosfera. Sì, perché il Natale si festeggiava con tutti i parenti, le due sorelle di mia mamma che abitavano a Bologna venivano a passare il Natale dai nonni al mare. Così in totale c'erano due nonni, tre coppie di genitori e sei nipoti, e io ero la seconda più grande. Il giorno di Natale mi ricordo che appena si arrivava a casa dai nonni si veniva accolti dal profumo dei cappelletti, del brodo e della mitica salsa verde che veniva servita in un vassoio di ceramica o porcellana bislungo, quello delle grandi occasioni, con un cucchiaio. Ogni nipote che passava di lì ne assaggiava un pochino cercando di non farsi beccare dal nonno. Ovviamente ciucciavamo tutti lo stesso cucchiaio. La salsa poi veniva servita anche nei giorni successivi, non più color verde smeraldo, più tendente al verde oliva grigiastro direi. Non so neanche se la si conservava nel frigorifero a quei tempi. Eppure si gustava sempre con lo stesso sapore di famiglia riunita, di festa, di spensieratezza, di tradizione ma anche di futuro davanti. Ancora oggi, adesso che non c'è più il nonno Sergio e neanche mia madre, che era la sua figlia maggiore, mia sorella, la decana dei nipoti, si è assunta l'eredità di preparare la salsa verde a Natale con la ricetta tramandataci dalla mitica zia Rina, sorella di mio nonno, che aveva addirittura gestito un piccolo ristorante in un paesino di campagna quando ero bambina. Mia sorella prepara un'ottima salsa verde, ma non è più lei, non è la stessa. Il ricordo innescato però resta, ma con un retrogusto un po' amaro. Eppure questa tradizione continua. Io lo trovo molto poetico. Rube Malves ha scritto che un pasto è l'anima del cuoco fatta cibo. Ecco, forse nella salsa verde l'ingrediente segreto di mio nonno, quello che oggi non possiamo più trovare, era la sua anima. Allora, questo è andato da Simone Ortolani, i Cimioni non leggono Nietzsche naturalmente. E devo dire c'è anche una coincidenza riguardo a questo suo racconto, perché proprio il giorno prima che lei mi mandasse il contributo avevo visto una trasmissione, sapete quei vari cookie show che girano, insomma, questo programma era particolare perché era vicini e lontani, una cosa del genere, adesso non ricordo bene come si chiamava, comunque era una coppia di persone, una persona radicata nella tradizione italiana e una persona radicata nella tradizione di un altro paese, e cucinavano insieme raccontandosi ovviamente storie, uno faceva un piatto ovviamente italiano e l'altro, e c'era questo discorso della salsa verde che in realtà, come tanti altri ricordi similari, ci riportano a cose comuni un po' della nostra infanzia. Perché mi è venuto in mente questo episodio? Mi è venuto in mente perché una sera eravamo a un ristorante dove tutti hanno preso cose particolari, tipo, che ne so, la tartare, la carne del pollo spaziale, chi ha preso il coscio di chocobo arrostito e via dicendo. Io sono fatto portare un piatto di tortellini in brodo. Poi, come dice giustamente Simona, c'è chi dice tortellini, c'è chi dice cappelletti, ma in realtà stiamo parlando sempre della stessa cosa, di un micro involtino ovviamente di pasta riempito di carne. Poi ognuno ha la propria preparazione, chiaramente i cappelletti dei tortellini sono diversi, perché se non lo dici, se non accetti questa cosa, chiaramente scattano delle guerre anche, insomma, personali e anche collettive. mangiando quel piatto di cappelletti, di tortellini in brodo, in quel caso per me sarebbero stati i cappelletti chiaramente, mi è proprio esploso il ricordo. Cose che ti si accendono solo quando nella vita ti capita di sentire quegli odori, quei sapori, quelle cose che in qualche maniera ti tengono ancorato a qualcosa che tu hai vissuto nella tua vita, no? E soprattutto coloro che, come tanti di noi, hanno avuto un'estrazione strettamente contadina, comunque in qualche maniera hanno avuto i nonni e i genitori anche che hanno vissuto parte della loro vita in quel determinato contesto, è chiaro che non possono non venirti in mente certe cose, certe memorie, certi ricordi. Ad esempio io ricordo proprio l'artigianalità, che è un po' quello che ci ricordava un po' Simone, no? L'artigianalità di certe cose, tipo quando preparavi le conserve, no? Le passate, gli estratti di frutta, no? Le polpe di frutta, insomma le frutte sciroppate che venivano ovviamente preparate, ma anche il pomodoro, ma anche la carne come veniva lavorata, tutta una serie di ricordi. Io mi ricordo l'odore della marmellata, mi ricordo mia nonna di fronte a sto paiolo che girava in continuazione sul fuoco con questo odore che si sprigionava per tutta la casa, ma anzi per tutto il circondario praticamente, con questo odore di marmellata. Io stavo lì soltanto perché mi nutrivo già soltanto dell'odore, no? Già pregustando quanto era buona la marmellata di more in particolare, no? Quindi ecco, c'è questa cosa dell'artigianalità, della condivisione, del modo in cui noi vivevamo certe determinate cose, che chiaramente si è perduto perché sono cambiate le abitudini, si è perduto perché abbiamo cambiato il nostro modo di essere, ma anche perché sono cambiate la nostra percezione nei confronti dell'igiene anche, no? Come diceva Simona, ma ciucciavamo tutti dallo stesso cucchiaino. Cioè io oggi faccio fatica a pensare ragazzi di questa generazione che si mangiano la polenta sulla spianatura, dove tutti quanti insieme mangiavamo sulla stessa tavolazza di legno la stessa polenta, e alla fine era un nutrirsi, era quanto era buona, ma era anche un momento di convivialità. C'era l'invasione, tu rubavi un pezzo a quello che ti stava vicino, quell'altro dall'altra parte ti rubava a te, e quindi era una festa, quando poi tutto un po' era rappresentato dalla festa, che era la festa proprio della condivisione, che è una cosa incredibile, perché tutto sommato non c'era mai quel senso, capito, di attrito, di assi, magari si discuteva, si litigava, però in quel momento tu percepivi che era un momento di condivisione, di festa, di gioia. Mantena! Piatti e memoria, piatto preferito legato ad un ricordo particolare. Innanzitutto è molto complicato questa domanda in realtà, uno perché di piatti preferiti ne avrei una marea, e tutti legati a ricordi abbastanza precisi e particolari. Addirittura c'è mia moglie che dice che io la mia memoria risiede nel mio stomaco, perché associo luoghi, situazioni, viaggi a piatti che abbiamo mangiato in giro, insomma assaggiato in giro. Sicuramente la prima cosa che mi viene in mente, la cosa forse più cara, è legata al ricordo delle fettuccine o degli gnocchi, ma diciamo soprattutto alle fettuccine che preparava mia nonna quasi tutti i weekend. Tra l'altro mi ricordo anche delle fettuccine clamorose fatte da tua nonna, che ci ha preparato una volta a San Savino. E sabato mattina, ecco, ho questo ricordo, ma fin da quando sono piccolo, con mia nonna che tirava fuori la tavolona, farina, uova, e si metteva lì col mattarello, e c'era questo profumo, il suono, proprio i rumori della sfoglia che batteva e risbatteva ogni volta che girava questo enorme mattarello. Insomma, aveva una tecnica tutta sua, consolidata, fenomenale, straordinaria. E poi quel sugo indimenticabile, quel sugo alla marchigiana, che dovrebbe essere secondo me patrimonio dell'umanità. Insomma, fettuccine al sugo di mia nonna. Questo è il mio ricordo più caro legato al cibo. Ma poi ce ne avrei mille altri che però ti racconterò in altre occasioni. Ciao! Eh sì, alla fine, come vedete, vabbè, poi qui siamo, cioè, siamo partiti con le Marche qui, eh? Nel senso Simona, io, Christian, e poi ovviamente, cioè, se vai a vedere tutta la tradizione un po' del centro Italia, ma questo è un paese dove, come ti sposti con il proprio aggancio mnemonico a qualcosa che faceva parte, insomma, dell'infanzia, dei ricordi di ognuno di noi, ma è proprio, secondo me, è proprio qualcosa di atavico, cioè proprio un rapporto con col cibo che è veramente importante, perché al di là del fatto che noi poi viviamo oggi in maniera un po' distorta, no? Il cibo, vogliamo mangiare oppure non mangiamo, e via dicendo, allora era veramente una festa, cioè tu comunque quella cosa la mangiavi solo in quei determinati momenti. Ed era bello così, no? Come dice Christian, sia della sua nonna ma anche di mia nonna, mia nonna praticamente faceva ste spianate intanto stanno iniziando i lavori, ragazzi, io, ragazzi, più di così non posso fare, de norma dovrebbero iniziare alle 8, però vabbè. E ecco, mia nonna che spianava praticamente ste benedette fettuccine, ed era divertente perché la vedevi con quale manualità, con quale esperienza, con quale abilità riusciva a fare sta cosa, era veramente incredibile. E la stessa cosa dei tortellini, che praticamente, cioè i cappelletti che mia madre, mia zia, mia nonna preparavano con una velocità incredibile, mettevano su ste tavolacce praticamente durante la notte, la prima ovviamente della notte di Natale, e quindi rimanevano là coperte praticamente tutta quanta la notte, e io ogni tanto andavo a curiosare perché mi sembrava un po' una via di mezzo tra una stanza segreta nella quale non si poteva andare e un obitorio allo stesso tempo, perché era tutto spento, tutto lugubre, con queste tavolazze che si vedeva che sotto c'era qualcosa, ma vabbè, tu sapevi bene perfettamente che cosa c'era. Ma in generale, come abbiamo detto, ecco, la polenta, la condivisione, i cappelletti in brodo, le fettuccine, i sughi, ragazzi. Tra l'altro c'era una pubblicità che, devo dire, poi mi sono dimenticato di cercarla, me l'ero segnato, dico, ora la cercherò, perché c'era sempre una pubblicità, perché la pubblicità, secondo me, alcune pubblicità hanno comunque raccolto un po' questo tipo di eredità, no? Cioè hanno comunque raccontato a volte in maniera, sì, marchettistica, quello che vi pare, anche un po' scimmiando, insomma, le varie situazioni, però, cioè, le raccontavano. C'era questo inglese che camminava, inglese, americano, mi sembra che fosse un inglese, che camminava e diceva: adoro l'odore del soffritto la mattina, no? E questo magari poi è un ricordo che viene dopo, magari pure con Michela, cioè alla fine ste nonne che già dalla mattina il primo pensiero era che cosa dovevano fare per pranzo, e cucinato il pranzo il pensiero è che cosa dovevano cucinare per cena, e quindi sti soffritti, sti sughi che iniziavano all'alba dei tempi praticamente, perché avevano dei tempi di cottura importanti, e ovviamente tutta sta cottura diventava poi ovviamente sapore. Allora, da buona forchetta quale sono, con pochissimi piatti che non mangio, devo dire che non ho una ricetta o una preparazione specifica che metterei al di sopra delle altre. Però se devo scegliere un cibo che possa definire io il mio preferito, direi probabilmente il riso. E sembrerà strano perché, ripeto, sono una buona forchetta e mangio veramente di tutto, ma io amo particolarmente i sapori, quelli un po' più semplici, o soprattutto quelli che dalla cui semplicità si può veramente ricavare la qualunque. E il riso mi rappresenta abbastanza, devo dire, perché è un piatto che tendi un po' a sottovalutare, se vogliamo, però è ricchissimo, è ricco di possibilità e anche di gusto, se vogliamo. E se dovessi associare un ricordo a questo tipo di cibo, potrei citare entrambi i miei genitori. Non ho degli eventi particolari che si associano ai piatti a base di riso, però mi ricordo che quando ero piccolo e stavo particolarmente male, tanto da non poter andare a scuola, sto parlando veramente della mia infanzia veramente tanto tanto addietro negli anni, insomma, quando ero veramente molto piccolo e avevo magari ho avuto quando sono stato piccolo tutte le malattie del mondo, quindi poi mi sono rafforzato nel tempo, sarà pure anche grazie alla cucina di mia madre, però mi ricordo che quando ero a casa mia madre era solita farmi il riso e devo dire che nonostante la semplicità del piatto io ero sempre molto contento di mangiarlo e mi è sempre piaciuto e mi è rimasto ancora questo gusto sopraffino per il riso in tutte le sue forme, in tutte le ricette in cui mi si può presentare davanti. E oltre a mia madre associo il riso anche a mio padre, perché lui, da cuoco provetto qual era, quando riusciva a cucinare nei weekend, insomma, per tutti noi, era solito comunque, qualche volta anche lui era solito comunque utilizzare il riso per preparare dei piatti molto ricchi, molto saporiti, quindi sì, lo associo alla mia infanzia, ai miei genitori principalmente, quindi sì, direi il riso. Nella sua semplicità però davvero ricco di possibilità. Sono d'accordo, anch'io qui ho un ricordo abbastanza simile, perché comunque quando stavo male e rimanevo a casa mi ricordo sempre questa cosa cioè c'è un ricordo in particolare, però in realtà tanti ricordi simili, però non so perché c'è un giorno in particolare che mi ricordo, perché evidentemente mi è rimasto particolarmente impresso. Innanzitutto, quando tu stavi male ti accorgevi che la mattina su certi canali c'erano i cartoni animati. E allora dicevi, vabbè, ma perché devo andare a scuola se ci sono i cartoni animati? E loro i cartoni animati li facevano magari per i bambini che stavano male, giustamente. E quindi io stavo a letto con la febbre e mia madre mi metteva quelle tavole che si mettono, insomma, quando stai male a letto, praticamente con questo piatto di riso, burro e parmigiano, che chiaramente suonava come una cosa, nel senso... E salutare, no? Che lì per lì tu comunque dicevo questo è il riso in bianco. In realtà, che riso in bianco? C'è il burro, c'è il parmigiano, c'è di tutto. Però in realtà era comunque veramente il comfort food, quello che oggi chiameremo il comfort food per eccellenza, di quando tu stavi male. E mi ricordo appunto in particolare questo giorno che stavo guardando Kimba, il leone bianco. Non so se voi lo ricordate, il cartone animato di Kimba, il leone bianco, mentre che mangiavo sto riso che comunque mi piaceva tantissimo. Un altro cibo che collego allo stare male, e siccome che comunque un certo tipo di condizione, non tanto allo stare male, ma comunque alla malattia, all'ospedale, via dicendo, un altro cibo che io associo è il purè. Il purè, per me, lo sapete, a me mi fate un piatto di purè, anzi, piatto di purè, mi fate una cucuma di purè, io posso stare a posto per tutto il giorno, posso mangiare solo quello. Chiaramente il purè che mangi all'ospedale non è il purè che te faceva mamma a casa, oppure che ogni tanto mia moglie che si mette lì e dice stasera facciamo il purè, io come i ragazzini, capito? Cioè per me, ah sì, che bello, stasera c'è il purè, no? È una cosa un po' così, un po' triste, ho 51 anni, però è così che funziona. Dicevo, il purè dell'ospedale chiaramente non è il purè che tu mangiavi, cioè che me, però a me piaceva anche quello, cioè è incredibile, cioè nel senso, poi sai, quello del purè è un po' più insipido, no? Un po' più liquidino, cioè un po' più squacqueroso, no? Eppure a me piaceva. Comunque, un'altra cosa che mi piace ricordare, mi è venuto in mente, dato che stavamo facendo un po' questa associazione, è il fatto che, non so se ve lo ricordate, perlomeno noi a Roma quando eravamo ragazzini era così. E io ero ragazzino negli anni 70, alla fine degli anni 70, quindi cioè, alla fine comunque ancora c'era una sorta di transizione tra un periodo, tra un modo di vivere e uno completamente diverso. C'era questa cosa che si andava al ristorante si andava solo con tutta quanta la famiglia, e si intende anche in senso esteso, una volta al mese ci si andava, se ci si andava, no? Ci si andava una volta al mese, e quando la famiglia si riuniva una volta al mese, dato che comunque nei giorni normali non è che si mangiava, ma non perché uno era povero, ma proprio perché non c'era l'abitudine che c'è oggi dell'abbondanza, roba del genere, si mangiava normale, cioè si muoveva molto di più, c'era anche fisicamente, no? Eravamo forse in condizioni anche migliori, diciamo così. Però ecco, la cosa bella è che quando si andava quella volta dentro il ristorante, tutta quanta la famiglia c'era da vergognarsi, c'era veramente da vergognarsi, perché sembrava che non avevano mai mangiato in vita loro, cioè che era la prima volta che vedevano un cibo servito dentro un piatto, una cosa veramente a volte imbarazzante. Ciao, sono Samuel, detto il Capitan Keith Arrow di Radio Anziano. Mi è venuto in mente un ricordo d'infanzia per quanto riguarda i cibi che ci evocano appunto delle memorie. Questo è il latte di mandorla, buonissimo, non lo bevo da un sacco di tempo e vorrei quasi quasi riassaporarlo, ma non quello che si compra al supermercato, quello siciliano, che mi ricorda la playa, la Villa Bellini e tutte le meravigliose attrazioni della città, tra cui il Lio e cioè l'Elefantino, la via Etnea, il viale Mario Rapisardi, il Fortino e tutti i caratteristici quartieri di questa città di cui non ho fatto il nome prima, ma lo faccio adesso, Catania. E solo per questa volta, come suggerito anche dal patron Pizzi, potrei denominarmi Capitan Kate Ania. Quindi aggiungo anche qualche altra attrazione, qualche altro quartiere. Direi di visitare sicuramente la pescheria, la piazza dell'università, via Crociferi, il teatro romano di Catania, il castello Ursino, piazza Stesicoro e sicuramente piazza del Duomo. E come dimenticare la più grande montagna, il più grande vulcano isolano, forse d'Europa, sì, l'Etna. Ricordiamoci anche i quartieri del centro e Ognina, Librino, San Birillo, il villaggio Sant'Agata, zona A, la Barriera, il villaggio Paradiso degli Aranci, Borgo Sanzio e Ognina Picanello. Un saluto da Kate Ania e alla prossima. Bene, sì, in effetti l'associazione Cibo Viaggio, quindi cibo altro luogo, cibo altro posto, è una cosa che di cui parleremo in un altro episodio più specifico, proprio perché comunque ci avevo pensato di fare due o tre percorsi diversi relativi ovviamente alla nostra memoria e il cibo oggi l'abbiamo visto più come una cosa dentro di noi, no? Che ci porta a qualcosa che magari abbiamo vissuto da bambini e poi parleremo del cibo relativo a quello che è la nostra esperienza nell'esplorazione di posti diversi, soprattutto all'inizio, le prime volte che vai all'estero, le prime volte che assaggi con curiosità dei cibi, delle pietanze diverse, dei condimenti diversi, dei modi di fare ovviamente cucina in maniera diversa rispetto a quella che sei abituato. Poi c'è molti italiani all'estero, li riconoscevi perché senza quello che cucina mamma o nonna non mangiavano, e invece altri che fortunatamente pensavano di riuscire a fare uno step over. Ciao a tutti amici di Runtime Radio, sono Pixel Deb e il mio piatto preferito in assoluto è la pasta e fagioli. L'adoro da sempre, però diciamo che in verità io la mangio un po' diversa da come la mangiano tutti, perché in verità passo i fagioli, non è che non mi piacciono i fagioli, che sono abituata a mangiarla così perché da piccola c'era mia zia che la faceva così ai suoi figli e io ho iniziato a mangiarla così all'epoca e la continuo a fare così tuttora, quindi diventa una sorta di minestra. Sono molto legata a questo piatto, sia perché, ripeto, è il mio piatto preferito, ma sia perché mia zia, che non c'è più da tanti anni, la faceva così e io continuo a farla così tuttora, e quindi ogni volta che la faccio penso a lei. Quindi sono legata a questo piatto anche per questo motivo. E questo, viva la pasta e fagioli, that's amore! Allora Deborah, faccia la pasta e fagioli pure a noi, perché tra l'altro vedete quanto siano condivisi certe memorie, no? Per esempio io la pasta e fagioli, cioè la famosa battuta di Edoardo De Filippo, no? Quando parla con la moglie che gli faceva il caffè, che era una schifezza, il caffè è una schifezza, no? Dice, tu sei fa tante cose, no? Tu sei la pasta e fagioli, tu sei la regina della pasta e fagioli, ma un caffè non fa per te. Era proprio questa cosa qua. E la pasta e fagioli era una di quelle cose che leggo molto a mia madre, perché mia madre faceva queste paste e fagioli lussuose proprio, e poi dopo ha sperimentato la famosa pasta e fagioli con le cozze, che uno lì per lì dice ma che è sta zozzeria, invece regà vi dico provatela una volta nella vita, se ci avete qualcuno che la prepara, che la fa, un posto dove la fanno, perché è veramente un valore aggiunto con la sapidità del sapore delle cozze, insomma, è veramente una cosa incredibile. E poi c'è la zia, perché poi io penso che ognuno di noi ci ha avuto una zia che magari quella volta che siamo stati lì perché t'hanno dovuto tenere, perché magari non sapevano come fare, o perché comunque ogni tanto l'andavi a trovare, che t'aveva fatto quel piatto che ti era talmente tanto piaciuto che da lì in poi ti faceva sempre quel piatto, e quindi tu associavi la zia a... Io per esempio avevo mia zia Anna, che da qualche anno non c'è più, che faceva sempre sto riso e fagioli, che a me, tu dici vabbè, riso e fagioli, chissà, che sei un colombiano, dice sì, a me tu mi facevi riso e fagioli come me lo faceva zia Anna, naturalmente io ero felice, perché pure lì si associavano cose che le mischiavi, cose che a me piacevano, il riso, ne abbiamo parlato prima, e i fagioli che magari non ne ho parlato, però insomma c'è ovviamente l'associazione, e vedete che poi alla fine comunque penso che ognuno di noi, secondo me, se uno fa una puntata del genere e ci ripensa, e magari chi ascolta gli vengono in mente delle cose e magari mi scrive, cioè con un tema del genere chissà quante altre puntate vengono fuori, perché noi comunque ci siamo molto focalizzati su realtà molto vicine, ma io immagino in Trentino Alto Adige o a Palermo o in Sardegna quante cose diverse ci possono essere. Comunque, dato che abbiamo parlato della pasta e fagioli, e dato che Deborah ha detto d'essamore, d'essamore. A pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. When the stars make you drool, just like a pastifazool, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Vita Bella, Vita Bella, hearts will play, tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a gay tarantella. Lucky fella. When the stars make you drool, just like pasta fazool, that's amore. When you dance down the street with the cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore, amore, that's amore. Allora, Buonasera a tutti amici, anzi buongiorno amici del Grande Reset, sono qui in corner, veramente in corner, per raccontare il mio ricordo legato al cibo. E il mio ricordo legato al cibo, ce ne sono tanti e tutti alla fine mi portano sempre a lei, alla donna che praticamente credo di aver amato al di sopra di ogni cosa e che mi manca sempre tantissimo, ma credo che il cibo proprio che mi porta al suo ricordo e mi porta comunque a un momento particolare della mia vita, a un momento bellissimo della mia vita, in realtà siano le puntarelle con l'aglio e la pasta d'acciughe che faceva mia nonna, la mia mitica nonna, che praticamente preparava qualsiasi cosa fatta in casa. Mio nonno mi ha insegnato a uccidere i conigli, a fare cose che voi umani non potreste neanche immaginare, e quindi praticamente a casa nostra si preparava di tutto, era tutto fatto in casa, dalla passata di pomodoro a persino il succo di frutta veniva fatto in casa. Però le puntarelle erano proprio una delle cose che io adoravo, che ho sempre adorato tantissimo e che credo di aver mangiato così buone soltanto a casa sua, soltanto con lei. E forse perché sia io che lei condividevamo questo grande amore per le puntarelle, una verdura romana che non so se al nord esiste, che viene condita con tantissimo aglio fatto a pezzetti, olio, e in realtà ci andrebbero le alici, ma mia nonna ci metteva la pasta d'acciughe. E il particolare che mi ricordo ero io che praticamente in qualsiasi momento lei decidesse di fare queste puntarelle andavo nell'alimentare di fiducia a cercare sta pasta d'acciughe per fare le puntarelle. Quindi in realtà credo che il mio ricordo più, diciamo così, più bello legato al cibo sia il giro che facevo per, diciamo così, per il paese, che poi mi ritrovo a fare anche adesso quasi tutti i giorni con il mio cane all'interno del centro storico di Monterotondo, del mio paese, e il giro che facevo per andare a comprare questa pasta d'acciughe. E quindi niente, poi ovviamente non vi sto neanche a dire quante cose mia nonna sapeva preparare: gnocchi ai funghi, porcini, fettuccine, chi più ne ha più ne metta, insomma. E a casa dei miei nonni era praticamente si iniziava a pensare al pranzo alle 6 di mattina più o meno, e poi così via, insomma, si arrivava, era tutto un pensare dal pranzo alla cena e fino a che non andavamo a dormire. E niente, tanti tanti saluti per questo weekend, e divertitevi e soprattutto mangiate tante puntarelle perché sono buonissime. No, ma dico, cioè, tutti lo strutto, il sugo, il ragù di 50 anni, robe, puntarelle sono la verdura, le verdure non so, un ricordo. scherzo, no, sono buone le puntarelle. Io faccio fatica, però, ma non per puntarelle. Poi tra l'altro questa cosa di Michela mi ha ricordato anche il fatto che ogni nonna in qualche maniera aggiungeva del suo alle ricette. Quindi queste ricette è un po' come quando io ti racconto una cosa a te, che tu la racconti a lui, che poi la racconta a quell'altro, che poi la racconta a quell'altro, no? Alla fine tu prendi un piatto tradizionale, improvvisamente prendeva milioni di derivazioni diverse. Ah, ma e tant'è che poi questo all'inizio, negli anni 60 e anche negli anni 70, secondo me, creava un po' di disguidi, perché quando i fidanzatini si sposavano e la moglie cucinava per la prima volta per il marito, e lui diceva: ma mamma me lo fa diverso. Che tristezza, un po' ci pensi, poi però invece è anche un po' la parte bella di questo ricordo. Andando in conclusione, Tra l'altro Michela mi ha sbloccato l'ennesimo ricordo, che è quello, cioè io mi ricordo mia nonna scuoiava i poverini, i conigli, è come quando levavi la federa ai cuscini, è la stessa cosa, capito? È una cosa incredibile. Mi ricorderò sempre, ragazzi, mi ricorderò sempre una 131 blu, mio nonno che guidava col maiale sopra il tetto della macchina, stacolata di sangue, e io che vomitavo, e lui che diceva, mio nonno era un pezzo di pane, cioè con me, cioè guai a chi mi toccava, però sta cosa ci si impuntava, ti devi abituare, perché per loro comunque quella era la loro vita, e in realtà poi alla fine non lo è stato più per nessuno di noi, e forse è un bene da una parte, forse un male dall'altra, perché comunque vediamo che noi, se in condizioni di crisi ed emergenza, non siamo più buoni a fa un cazzo, fondamentalmente. E quindi noi che portavamo sto maiale da San Savino, quindi da casa mia a Cagli, con la 131, con il maiale sopra, con la colata di sangue da una parte, per portarla al consorzio e venderlo, un viaggio che in condizioni normali ci metti 10 minuti, ci voleva mezz'ora. Questo odore de sangue, de sporco, de maiale, de morto, che brutto dirlo così, però in realtà lo ricordo bene oggi, cioè nel senso lo ricordo sempre con grande piacere, e tutte quelle cose, quelle abitudini, quelle tradizioni che comunque ancora oggi ci portiamo dietro e che comunque ci piace ricordare, e che forse qualche volta ci piacerebbe anche recuperare, no? Cioè cercare di, a volte tu guardi indietro e dici, ma quasi quasi prendo quella direzione piuttosto che un'altra. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di esserci stati, spero che comunque vi abbia acceso dei ricordi oltre che la fame chiaramente, anche se alle 8 di mattina è un po' tosta, immagina che uno se adesso si mette a fare puntarelle con l'acciughe e l'aglio, i pezzi d'aglio dentro, però in generale comunque spero che vi abbia acceso dei ricordi, vi abbia dato un po' di buon umore per iniziare questo venerdì che è l'ultimo giorno della settimana, e spero insomma che passiate un buon fine settimana. Non vi dico il tema della prossima puntata, anche se già c'è, perché mi piace tenere questo clima così, insomma, questa atmosfera fatta in questa maniera, mentre che mi stanno trapanando praticamente dentro casa, io vi saluto e vi auguro una buona giornata e alla prossima settimana con il Grande Sere 7. E questa sera vi ricordo che alle 21 c'è la nuova puntata di Io ho visto cose con Olivia e Marco, e poi alle 23 come al solito ci sarà Runtime by Night. Ciao a tutti!